Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore Fabi, secondo lei i nostri politici stanno davvero investendo energie su ciò che serve veramente? Qui, a forza di parlare e agire sui massimi sistemi, si rischia di perdere di vista l'attualità del quotidiano. Io sono un lavoratore autonomo con partita IVA. Quando faccio una fattura di 100 più IVA, dovrei incassare 120. In realtà ne ricevo solo 100 per effetto della ritenuta d'acconto. Però lo Stato pretende che versi comunque l'IVA e questo porta il mio reale introito lordo a 80 euro. Buona la storia, ma a giugno facciamo il conguaglio e te li ridiamo. Io la spesa al supermercato la faccio tutte le settimane e mangio tutti i giorni. Non posso congelare la mia famiglia fino a giugno. Come se non bastasse, lo Stato ci chiede anticipi dell'IVA, anticipi dell'INPS, dell'IRPEF, eccetera. Ma perché continuano a toglierci risorse sempre, quando potremmo spenderle per rivitalizzare l'economia, a prescindere dalla crisi? Ci sono persone che non arrivano a fine mese, ma lo Stato mi sembra messo peggio dei cittadini. Non arriva neppure a giugno senza chiederci gli anticipi. Francesco. Caro Francesco, ci sono tante cose che non vanno e che andrebbero riformate nel nostro sistema fiscale, ma mi consenta, una delle poche cose su cui forse non è giusto lamentarsi è proprio quella degli acconti che devono pagare i lavoratori autonomi. I dipendenti le tasse le pagano immediatamente, di mese in mese, trattenute direttamente sulla busta paga. I lavoratori autonomi invece le tasse le pagano due volte l'anno con il sistema dell'acconto appunto ed eventualmente con un conguaglio finale in sede di dichiarazione dei redditi. Come forma quindi? Il sistema risponde alla logica di prelevare quanto dovuto al fisco a scadenze più ravvicinate senza aspettare un anno. Lo Stato comunque non chiede un anticipo, cioè di pagare le tasse prima di aver prodotto il reddito, ma un acconto, cioè una quota delle tasse che risulteranno nella dichiarazione finale sulla base del reddito già prodotto nei mesi precedenti. Detto questo, c'è una differenza molto significativa dal profilo psicologico. I dipendenti vedono scritto il loro prelievo fiscale solo sulla carta, sui fogli della busta paga. Gli autonomi incassano realmente tutto il denaro e poi ne versano la parte dovuta al fisco. E così l'autonomo ha l'impressione di pagare tanto, mentre il dipendente ha una minore percezione di quanto effettivamente gli viene trattenuto. Per gli uni e per gli altri, tuttavia, le tasse sono comunque troppo alte e costituiscono un freno all'attività economica. Avremo bisogno di uno Stato più efficiente e insieme di un prelievo fiscale più basso. Non sarà facile, ma continueremo a impegnarci per questo. La magistratura, l'Italia dei Valori e il PD stanno facendo un gran baccano sul fatto che i processi corti, si fa per dire, favoriranno gli accusati di qualche reato perché, dopo i consueti tempi biblici, non verranno più processati. Questa sicuramente è una profonda mistificazione della realtà giudiziaria che ogni cittadino italiano ben conosce e di cui paga spesso le spese, perché è noto che chi commette un sopruso verso qualcuno, che non ha altro mezzo per difendersi che il tribunale, viene tranquillamente sbeffeggiato sfidandolo a fargli causa, in quanto conscio dell'estrema lentezza e gravosità che comporta questa strada. Così molti sono costretti a subire un'ingiustizia, perché il ricorso alle vie legali durerebbe anni e costerebbe assai in avvocati. E magari la sentenza potrebbe anche essere loro sfavorevole, poiché molto spesso vengono riportate dalla stampa sentenze contraddittorie per lo stesso reato con giustificazioni opposte. Quindi ben venga un giudizio più rapido, poiché l'attuale sistema della giustizia italiana favorisce di fatto solo i malfattori a danno degli onesti cittadini. Fabio. Quando un processo, ad esempio per incidente stradale grave, si sta mettendo male per l'imputato, pensate a quante e quali richieste di rinvio, di consulenze, di perizie, di testimonianze nuove presenterà il difensore al tribunale, tutte regolarmente motivate, per arrivare alla fatidica data del liberi tutti. E le vittime dell'incidente? Devono affrontare spese per avvocati, tensioni, attese, emozioni. Tutto a carico loro e un brindisi all'imputato che se ne va. Berlusconi vuole un processo breve? Fornisca piuttosto i mezzi per concluderlo in breve tempo. Questa è l'unica soluzione. Interrompere un processo per farlo diventare breve è come uccidere il malato per risparmiare sulla sanità. Ma vi rendete conto a quale stravolgimento sociale stiamo andando incontro per gli interessi di un solo individuo? Giuseppe. Ho fatto l'assessore in un comune di 10.000 abitanti lavorando come dipendente. Vi assicuro che manca il tempo per fare tutto e non sempre si possono conciliare due attività. Un sindaco di un comune di 10.000 abitanti, se vuole lavorare, lo deve fare a tempo pieno. Figuriamoci il sindaco di Venezia. Ma questa bramosia di potere, di onnipotenza, da dove arriva? Dopo le tante sparate, anche se molti problemi che pone il ministro sono seri e andrebbero affrontati senza tanti pregiudizi, ora forse Brunetta crede di avere anche il dono dell'ubiquità? La politica purtroppo non mi sembra più una cosa seria e certi personaggi sono lì a dimostrarlo. Aldo, provincia di Cuneo. Brunetta non deve rendere conto a nessuno delle proprie presenze al municipio o al ministero. Egli, come ministro, è responsabile dell'attività del proprio ministero. Ha poteri di indirizzo, programmazione e di verifica dei risultati sull'attività. Come sindaco, ha responsabilità analoghe. Se non saprà mantenere le promesse elettorali fatte ai veneziani e agli italiani, è giusto che vada a casa. Viceversa, penso che un impegno mantenuto valga più di 100.000 ore infruttuosamente passate dentro un ufficio. Marco. Ma se le televisioni straniere dedicano così tanto tempo alla politica interna italiana, quando è che parlano della loro situazione informando i loro cittadini? Se nei nostri TG parlassimo a lungo della politica interna britannica, per esempio, i bravi grillini non parlerebbero in questo caso di distrazione di massa? In quanto alle critiche al TG1 per i suoi servizi sulla calza della Befana, si tratta di servizi di colore che vanno in onda alla fine del telegiornale, ed è disonesto fingere che corrispondano alla totale del tempo del TG stesso. E ricordiamoci di quanto tempo i TG tedeschi abbiano dedicato all'orsetto Knut. Marco. Nei recenti fatti di Rosarno si è appena accennato ad una questione fondamentale per la convivenza tra bianchi e neri. Si è parlato diffusamente delle misere condizioni abitative e dei bassi salari dei lavoratori neri a Rosarno, ma alcune parole tra le righe hanno evidenziato un problema sempre sottovalutato e misconosciuto da tutti per i più svariati motivi. Un lavoratore negro ha detto che se lo avessero ucciso non gli sarebbe importato molto, visto che viveva miseramente e non aveva amore. D'altra parte, un rosarnese ha criticato i negri perché si permettono di dare fastidio alle bianche di Rosarno. I neri sono esseri umani e per vivere hanno bisogno di pane, ma soprattutto di amore. Dicendo amore si sottointende anche il sesso. I lavoratori neri a Rosarno sono tutti di sesso maschile e le uniche donne sono le bianche. Finora in Italia i neri hanno avuto modo di sfogare ampiamente i loro istinti sessuali, essendo desiderati e ricercati dalle bianche e quindi anche dalle italiane di ogni età. Solo ultimamente ci sono stati evidenti segni che qualcosa non funziona più nei rapporti sessuali tra neri e bianche. Il problema della concorrenza sessuale nel razzismo è un tema tabù e la cultura buonista, frutto di una lunga storia incominciata con la guerra di secessione americana e con i credi religiosi, impedisce di parlare e discutere di certe cose. Comunque dobbiamo dirlo a chiare lettere. Se accettiamo che gli immigrati vengano liberamente tra noi e gli diamo la cittadinanza, dovremo dargli tutti i diritti, la sanità, la casa e preoccuparci anche che abbiano amore e sesso. Ferdinando. È ormai chiaro che la soluzione al problema della prostituzione sulle strade, che crea degrado e alimenta il circuito criminale dello sfruttamento, è la legalizzazione. I vantaggi che porterebbe sono noti a tutti. Però siamo seri. Quale politico sarebbe tanto stupido o coraggioso da voler essere ricordato come colui che liberalizzò la prostituzione in Italia? È molto più facile e conveniente promuovere interventi proibizionisti e ipocriti che nascondono il problema e creano una falsa idea di sicurezza. I cittadini cattolici e benpensanti sono felici di aver spostato il problema fuori dalla loro vista e intanto i criminali continuano a sfruttare migliaia di ragazzine. Il problema è che la nostra classe politica non dispone di uomini tanto coraggiosi e illuminati Tutti pensano al proprio tornaconto e, perché no, mirano ad ottenere anche loro una statua in marmo bianco in qualche paese. Ezio, Bologna. La libertà di Internet è durata troppo. Non poteva durare di più. Il potere di ogni stato sta cominciando a correre ai ripari. Fino a quando era una cosa curiosa e divertente per ragazzi o per sfaccendati, lo si poteva lasciare in pace. Ora, in tutto il mondo, Internet sta diventando una cosa seria e un po' preoccupante, e quindi era ora di dire basta. Motivazioni per criticare le sue magiche e ribelli possibilità se ne possono trovare quante se ne vuole. Lesione della religione, dell'onorabilità dei singoli, della decenza o del pudore sessuale, turbativa dei mercati, violazione della privacy, oltraggio alle istituzioni, incitazione al delitto, diffusione dell'odio, iniziative politiche non regolate, fulmine i lanci di notizie e così via. Si è visto che, con la rete, limitarsi a disprezzarla non è stato sufficiente. E così, a cominciare dai regimi che non soffrono di pudori costituzionali, come la Cina, ad esempio, a poco tutti gli stati procederanno a questa sacrosanta opera di risanamento dei rapporti interumani, affinché la legge, quale espressione della volontà libera e consapevole delle maggioranze dei popoli, possa continuare a disciplinare la vita dei sudditi. Basta avere pazienza e sarà consentito ad Internet di svolgere quel sano compito di supporto e di ausilio informatico per l'ordinata e pacifica sicurezza di tutti. Giuseppe. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.